Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis e soprattutto buon anno cari ascoltatori. Questa sera riparte con la programmazione ordinaria Smart City e riprendiamo l'anno nuovo tornando alla fabbrica di imprese Inovia con base a Milano, dove siamo già, lasciatemi dire così, transitati in passato, e ci torniamo per raccontare alcune delle ultime novità nate lì, come dire, sviluppano, fabbricano appunto imprese innovative. E molte delle idee, dei progetti che si stanno sviluppando in questo momento a Inovia saranno poi presenti al CES di Las Vegas, che come è noto è la più grande fiera delle tecnologie futuribili del mondo. E allora, per così farci raccontare un po' delle cose, dei progetti che saranno presenti, abbiamo in linea Ivo Boniolo, che è cofondatore e Chief Innovation Officer di Inovia. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, senta, intanto ricordiamo brevemente qual è la ricetta, perché voi non siete proprio un incubatore, siete qualcosa di un po' diverso. Esatto, noi siamo una fabbrica di imprese. La ricetta è quella di lavorare per la creazione delle proprietà intellettuali che poi creano quelle tecnologie futuribili che si vedranno al CES. Le individuiamo, le selezioniamo, investiamo su quelle più interessanti, le trasformiamo in oggetti tangibili, in prototipi. Però voi non è che importate startup, ma le costruite, per così dire, al vostro interno. Ecco. Le costruiamo al nostro interno, tecnologicamente e a livello imprenditoriale. Dunque, ci sono vari progetti appunto che sviluppate lì. Ce n'è uno che mi ha colpito, perché mi sembra che si porti dietro anche un concetto interessante. Mi riferisco a Existo. Prima si chiamava Sixto, poi avete dovuto cambiare nome per ragioni di sovrapposizione, branding. Di branding, ma Sixto forse come dire, esprimeva meglio questa idea, no? Perché ci fa pensare a Sesto. Che cos'è? Un esoscheletro leggero indossabile al polso delle persone che hanno perso l'abilità chiave, che è quella di poter prendere degli oggetti. Ecco, però è una specie di sesto dito, è proprio. È una specie di sesto dito a tutti gli effetti. Di secondo pollicione opponibile, potremmo definirlo così. Esatto, è un secondo pollicione opponibile, assolutamente corretto. Ecco, ce lo puoi descrivere brevemente e anche come viene comandato, come fa una persona a gestirlo questo dito? Per poterlo comandare sono sufficienti leggere alcuni segnali corporei che possono essere anche, diciamo, forniti mediante brain reading. Addirittura. Assolutamente. L'indossabilità è stata pensata per poter essere portata al polso in maniera tale da non appesantire la persona che già appunto ha perso l'abilità di presa, e si tratta proprio di un sistema modulare fatto da una serie di elementi che permettono di avvolgere un dito all'interno della mano, usando la mano come intero palmo, e quindi di ricostruire, come correttamente hai detto, un pollice opponibile elettronico ed elettromeccanico. Ecco, un aspetto interessante però è che questo oggetto è pensato, sì, naturalmente per, come dire, restituire capacità di presa a chi per qualche ragione l'ha persa o comunque ha una capacità di presa ridotta, però è interessante perché è pensato da subito anche come strumento aumentativo delle capacità dell'uomo in altri contesti. Pensiamo a gesti ripetitivi che si possono fare sul lavoro, in cui bisogna afferrare degli oggetti. È assolutamente corretto, è un paradigma molto importante quello dell'augmented human, che permette appunto di poter a persone che invece sono normodotate adottare queste tecnologie per poter aumentare le loro capacità. Nel caso specifico, un lavoratore che ha necessità di trasportare un peso che potrebbe essere ergonomicamente impattante può utilizzare un esoscheletro come questo per distribuire meglio il carico. Banalmente uno può immaginare che questo dito si trasforma, diciamo, in una sorta di gancio, come dire, cui uno può appendere un peso senza far fatica, senza usare la forza delle proprie dita, no? Per tenerlo. Quindi c'è questa prospettiva di aumentare, che ancora si vede poco nelle applicazioni di carattere robotico, ma è una prospettiva molto, molto interessante, quella di appunto aumentare alcune nostre capacità. Senta, dicevamo dei diversi progetti che presenterete a Las Vegas, ce ne ricorda qualcuno? Assolutamente, una delle aree più importanti del nostro boot sarà quello dedicato alla mobilità, che noi definiamo collaborative mobility, perché lavoriamo nel mondo dei servizi di trasporto delle persone in senso molto ampio. In particolare avremo tre iniziative nell'ambito del trasporto ultraleggero nel mondo bike, di cui una è stata premiata dall'Innovation Award Honoree, quindi dall'organizzazione del CES. Si parla di iRide, sospensioni elettroniche per il mondo bici integrate per poter garantire la sicurezza in ambito stradale. Altro progetto presente al CES nell'ambito della Collaborative Mobility è Blue Brake, un ABS elettronico destinato al mondo delle e-bike, quella che chiamiamo una safety bible intorno all'utente, con un'applicazione molto importante, perché è l'unico sistema che può essere applicato al mondo cargo, e sul mondo cargo presenteremo Cargo Bike, ecco, ricordiamolo, è una grande prospettiva ancora molto poco utilizzata in Italia, ma un sacco della logistica che facciamo oggi, per cui facciamo circolare furgoni in città, si potrebbe fare con delle biciclette, no? Esatto. Opportunamente attrezzate con una certa capacità di carico. Con quella capacità di carico che normalmente richiede anche della nuova tecnologia. La tecnologia che presenteremo è il prodotto di Misi, un telaio stabile, un telaio che è in grado di ridurre il numero di cadute legato allo spostamento del peso portato dal rider. Questo perché? Perché se le città si riempiono di cargo bike, la sicurezza deve essere dedicata a questo tipo di veicoli. Un altro esempio dei progetti che porterete fuori, diciamo, dal mondo bike in questo caso? Progetto nel mondo delle humanized machine, smart robots, anch'esso premiato all'Innovation Award Honoree. Parliamo di un sistema per poter aumentare le capacità di una persona all'interno di impianti produttivi, supportandola nel training, nell'ergonomia e nella collaborazione con i robot, i manipolatori, e in futuro con le macchine, perché l'uomo è al centro del nostro sviluppo industriale. Va bene, allora Ivo Boniolo, intanto in bocca al lupo per il CES di Las Vegas e grazie di essere stato con noi. È stato un piacere, crepi il lupo, a presto. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani, buona serata.